Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. 750 miliardi di aiuti e prestiti finanziati sul bilancio comune, questo è il piano di rilancio europeo che sarà presentato oggi dalla Commissione. L'Italia deve farsi trovare pronta, dice intanto il Premier Conte, che annuncia un piano meno burocrazia e più digitale con il coinvolgimento delle forze produttive. Il presidente della Lombardia Fontana sotto scorta dopo le pesanti accuse e le minacce sulla gestione sanitaria, stessa tutela anche per la ministra Azzolina. Per la Serie A post-Covid è già guerra TV tra Sky e Lega Calcio, per la data di avvio del campionato si decide invece domani. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, una giornata che è caratterizzata dall'attesa del piano di rilancio, il famoso Recovery Fund, che sarà presentato oggi alle 13.30 dalla Commissione Europea. Lo seguiremo in diretta naturalmente più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno e poi questo piano che poi dovrà naturalmente passare anche al vaglio del Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo, quindi la giornata di oggi è cruciale ma non è definitiva. Fiducioso si dice intanto per quanto riguarda il nostro paese il ministro dell'economia Gualtieri, mentre Conte annuncia dobbiamo mettere su un piano con meno burocrazia e più digitale per farci trovare pronti a spendere questi aiuti. Sentiamo. Ancora cifre pesanti per l'economia reale, crolla il fatturato dei servizi, meno 6,2%, la ristorazione a picco, meno 24,8%, e mentre il paese cerca di risollevarsi nella fase 2, il premier Giuseppe Conte in una dettagliata lettera sul Corriere della Sera e al Fatto spiega in 7 punti chiave un piano per la ripresa italiana dopo l'emergenza coronavirus. Incentivi al digitale per la modernizzazione del paese, pagamenti elettronici, PA, banda larga, banche dati e identità digitali, ma soprattutto perché la tecnologia sia alla portata di tutti e di tutte le tasche dopo lo smart working e la didattica a distanza in emergenza, strumenti per il consolidamento delle imprese, delle filiere, per le start-up, rendendo strutturali ACE e Industria 4.0, rilancio degli investimenti pubblici e privati e sburocratizzazione con sblocca cantieri, accelerazioni nelle procedure e revisione dell'abuso d'ufficio sempre nella legalità. Gli altri punti, una transizione per un'economia sostenibile legata al Green Deal europeo e alla tutela e alla promozione del territorio e del patrimonio paesaggistico culturale, innovazione dell'offerta formativa per il diritto allo studio e della ricerca, tempi della giustizia più brevi e una seria riforma fiscale. Non possiamo più permetterci un fisco iniquo e inefficiente, spiega Conte e aggiunge: l'Italia deve farsi trovare pronta. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E via libera oggi della Camera al decreto legge imprese. I voti favorevoli sono stati 269, i no 193, gli astenuti 9. Il testo adesso passa all'esame del Senato. C'è ancora molta incertezza sulla riapertura degli spostamenti tra le regioni. Le ultime indicazioni sembravano concentrarsi su Lombardia e Piemonte, le uniche regioni che potrebbero subire alcune limitazioni. Intanto oggi il sindaco di Milano Sala ha ringraziato il presidente della Liguria Toti perché Toti ha detto che accoglierà i lombardi a braccia aperte, pronto a farlo, mentre invece c'è una lite con il presidente della regione Sardegna Solinas sulla questione della patente di immunità cosiddetta, tutto in attesa del 3 giugno. La data del 3 giugno si avvicina. Prima di dare il via libera alla ripresa della mobilità fra regioni, il governo attende però gli ultimi dati del monitoraggio effettuato dal Ministero della Salute, dove verranno evidenziate situazioni critiche. La riapertura dei confini potrebbe essere rinviata di 1 o 2 settimane, a rischiare soprattutto la Lombardia e in parte anche il Piemonte. La decisione non arriverà prima di venerdì. L'esecutivo lavora ad una soluzione condivisa con i governatori, il cui fronte appare però diviso. Quelli di Sicilia e Sardegna, preoccupati, chiedono che venga previsto un certificato di immunità per i turisti, specie per quelli in arrivo dalle regioni del nord più colpite dall'epidemia, e in caso contrario minacciano di chiudere i confini. Siamo pronti ad accogliere i turisti milanesi, fa sapere invece il governatore della Liguria Toti, mentre dal sindaco di Milano arriva un monito: ci ricorderemo delle regioni che chiedono una patente di immunità, avverte Sala. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina è stata messa sotto scorta da 3 giorni, viene infatti scortata dagli uomini della Guardia di Finanza perché da alcuni giorni, a quanto si apprende, la ministra è diventata oggetto di minacce e di insulti sui social. Azzolina, pur essendo ministro, non aveva la scorta. Sotto tutela, tra l'altro, è sempre la notizia si è saputa oggi, anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dopo le minacce e gli insulti pesanti ricevuti a causa della gestione sanitaria nei giorni scorsi. Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana da 2 giorni è sotto scorta. La misura è stata decisa dalla prefettura di Varese dopo che il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente, dice in una nota il prefetto. Ci sono stati ad esempio 2 murales a Milano in cui viene giudicato assassino e si leggono continue minacce sul web. Minacce che l'avvocato del governatore sta raccogliendo per fare un esposto in procura, dove c'è già un fascicolo aperto sulle scritte firmate CARC, Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, una sigla su cui occorre fare chiarezza, secondo gli inquirenti. Fontana ha ribadito che non ha chiesto lui la scorta e che il suo lavoro proseguirà come sempre. All'ordine del giorno ora c'è la riapertura della Lombardia, probabilmente rimandata di 1 settimana rispetto alle altre regioni italiane. Si deciderà entro venerdì. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, un terremoto di magnitudo 4 ha colpito l'Iran con epicentro tra le province di Teheran e Mazandaran. Alle 13.41 ora locale, erano le 11.11 minuti in Italia, la scossa si è sentita con forza nel raggio di 15 km da Teheran. Per il momento però non si segnalano fortunatamente né vittime né danni particolari. Ora invece andiamo ad Hong Kong, dove proseguono le proteste con arresti e feriti. Torna la violenza nelle strade di Hong Kong. Diverse le cariche di polizia con agenti in tenuta antisommossa schierati intorno al Parlamento, dove è stato eretto un muro di plastica alto 6 metri a difesa dell'edificio, che hanno lanciato lacrimogeni e sparato proiettili urticanti sulla folla di manifestanti, molti dei quali arrestati con l'accusa di sospetta partecipazione a cortei non autorizzati e blocchi stradali. Alla mobilitazione hanno aderito centinaia di persone, scandendo slogan come 5 domande, non una di meno. Oltre 30 sigle sindacali, un network di 22 scuole superiori e università sostenuti dal passaparola sugli account criptati di Telegram, avevano invitato tutti a partecipare oggi allo sciopero generale e alla mobilitazione sia intorno al Parlamento sia con azioni mirate contro la contestata legge sul rispetto dell'inno nazionale cinese e quella sulla sicurezza nazionale all'esame del Congresso nazionale del popolo evoluta da Pechino. La stretta su Hong Kong ha avuto risonanza a livello diplomatico sul già instabile asse Cina-Stati Uniti. Donald Trump si è detto contrariato e ha promesso faremo qualcosa di molto potente. Pechino, da parte sua, ha replicato che prenderà le necessarie contromisure contro le forze esterne che interferiscono su Hong Kong. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo adesso in Italia, in corso, a quanto si apprende, un vertice di governo in videoconferenza sul nodo della concessione Autostrade per l'Italia. Alla riunione partecipano il Presidente del Consiglio Conte, i ministri dei trasporti De Micheli, dell'economia Gualtieri, ma tutti i capi delegazione della maggioranza. Sul tavolo il dossier messo a punto fin qua dalla ministra De Micheli, che però sembra giunto a un punto morto, ma il dossier che prevede il calo delle tariffe del 5% con una estensione della concessione però fino al 2038, fermi restando gli investimenti da fare sulla rete autostradale. Questo è quanto si apprende, è l'oggetto della discussione di questo vertice sul nodo delle concessioni autostradali. Adesso invece con la cronaca ci spostiamo in Sicilia, a Palermo. Arresti per mafia, i boss stavano preparando una loro lista per le elezioni politiche. Avevano progettato la creazione di una lista civica per partecipare alle elezioni amministrative del comune di Misilmeri, in provincia di Palermo. La mafia non si fida più dei partiti e voleva entrare direttamente con un proprio candidato sindaco nel municipio in provincia di Palermo, peraltro già sciolto per mafia 3 volte in passato. Il progetto non è però poi andato in porto, bloccato dall'operazione Cupola 2.0, con cui gli investigatori hanno smantellato nel dicembre 2018 la nuova commissione direzione provinciale di Cosa Nostra palermitana. È quello che emerge dall'operazione del nucleo investigativo dei carabinieri, che ha arrestato 8 persone ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Novità in vista almeno a partire da domani probabilmente per quanto riguarda lo svolgimento della Serie A, del campionato di Serie A di calcio, perché domani dovrebbe arrivare il via libera anche con una data. Intanto però la questione si sposta sui diritti televisivi con la Lega, che presenta un ricorso contro Sky. Le idee della Serie A su tempi e modi dell'eventuale ripartenza del nostro calcio saranno discusse nel vertice di domani con Governo e Federcalcio. Poi, venerdì, non a caso, 24 ore dopo la riunione generale, è già fissata un'assemblea di Lega. Invece, sul fronte TV è già guerra di carte bollate. Il Consiglio della Lega Calcio ha confermato la linea del rispetto dei contratti. Quindi verrà recapitato a Sky un decreto ingiuntivo per non aver rispettato il versamento della sesta rata da circa 130 milioni di euro, come previsto appunto dai contratti in essere. Diverso il discorso per DAZN e IMG, che hanno avanzato proposte di versamenti dilazionati che verranno valutati in seguito alla ripartenza delle competizioni. Sky ha invece tenuto una linea più rigida. O la Serie A accettava uno sconto sul modello Bundesliga, richiesta invece irricevibile secondo i club tutelati da accordi differenti rispetto a quelli tedeschi, o non avrebbe pagato. Da qui lo scontro legale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 11 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dalla lite di oggi tra Milano e la Sardegna. Mi ricorderò di chi chiude l'ingresso ai Lombardi, dice il sindaco Beppe Sala. Risponde il governatore della Sardegna Solinas: abbia la decenza di tacere, lui che faceva gli aperitivi ai tempi del coronavirus. Così la risposta della Sardegna. In tutto questo si inserisce la Liguria, che dice: noi i Lombardi li accogliamo a braccia aperte. Il tema, l'avete capito, è quello degli spostamenti a partire dal 3 di giugno. E poi ancora oggi le frecce tricolore saranno a Napoli, sarà ancora assembramento perché è accaduto a Torino, poi è accaduto ieri anche a Perugia, dove per assistere allo spettacolo delle frecce tricolore si è però creato un quasi assembramento. E poi vi ricordo che alle 13.30 saremo in attesa della presentazione quasi in contemporanea del piano di rilancio Recovery Fund, famoso, da parte della Commissione Europea. Insomma, vi sveleremo in diretta quali fondi ci sono anche per l'Italia dopo le ben note polemiche sugli aiuti europei. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. La Commissione Europea presenta il suo piano di rilancio, si parla di 750 miliardi tra aiuti e prestiti. Conte: prepariamoci a spenderli con un piano meno burocrazia e più digitale. Il presidente della Lombardia Fontana sotto scorta, dopo le minacce per la gestione sanitaria, stessa tutela anche alla ministra Azzolina. La scoperta del Giovanni XXIII di Bergamo e del Sacco di Milano sull'Lancet: eparina efficace per prevenire le gravi conseguenze del coronavirus, ne parliamo tra poco. Lite Milano-Sardegna sulla patente di immunità per entrare nell'isola quest'estate, e tra i due litiganti la Liguria apre le porte, accoglieremo a braccia aperte i vicini lombardi. Tredici e 15 minuti, eccoci qua cari ascoltatori in diretta con Effetto Giorno. Ripartiamo proprio da quest'ultima notizia. Questa mattina è andata in scena questo inedito litigio tra Milano e la Sardegna, almeno tra i loro vertici istituzionali, il sindaco di Milano Sala e il presidente della regione Solinas. Sala ha detto, a proposito del fatto che la Sardegna accoglierà i turisti soltanto con una patente immunitaria o comunque con un test sierologico negativo o positivo con anticorpi, insomma è un meccanismo complesso, ma insomma sapete di che cosa stiamo parlando, ha detto: mi ricorderò quando andrò in vacanza tra chi mi chiude le porte come la Sardegna e chi invece me le apre come la Liguria. Solinas ha risposto dicendo a Sala che deve tacere, per lui che ha fatto gli aperitivi ai tempi del coronavirus, ai tempi iniziali. Insomma, al di là di questo botta e risposta, ne parliamo con la vicepresidente della Regione Liguria, assessore alla sanità, Sonia Viale. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. Perché effettivamente è proprio il caso di dire che tra i due litiganti, il terzo, che sarebbe la Lombardia, gode, nel senso che voi avete assunto questa posizione, tra l'altro da prima che ci fosse questa lite tra la Sardegna e Milano. Avete detto: noi insomma staremo a guardare le curve, giovedì e venerdì si farà il bilancio, i dati quali saranno, eccetera, eccetera, ma siamo pronti ad accogliere i vicini lombardi anche se sono, come dire, in una condizione un pochino peggiore della nostra, quello che si sa a questo momento. È così? Avete detto questo? Perché siete pronti ad accogliere i lombardi già da adesso? Ma certamente, perché se ci sarà una decisione a livello nazionale che consenta alle regioni di aprirsi di nuovo ai spostamenti interregionali, la Liguria è pronta, sia come rete ospedaliera, quindi con tutte le cautele nell'eventualità di ripresa di un picco, sia la capacità di valutazione sul eventuali focolai sul nostro territorio. Sono valutazioni complesse, certamente, ma la nostra tradizione come Regione Liguria di vicinanza con la Lombardia, ma con altre regioni, è insomma in qualche cosa che non può essere trasformata in questo momento, che chiaramente pone al centro la salute delle persone. Questo è un tema che prendiamo molto in considerazione, ma pensiamo di poter aprire. Senta, al di là di questo le voglio chiedere, lei ha conoscenza del fatto che giustamente lei ricordava un sistema complesso, questo dei 21 parametri messi a punto dal Ministero della Salute per valutare l'andamento del contagio nelle regioni e classificare le regioni con rischio basso, moderato, eccetera, perché sembrata a un certo punto, l'ha scatenato l'Umbria questa questione, che il sistema non funzionasse, come dire, dava delle indicazioni non coerenti. In Umbria, dove non c'erano casi da giorni, si dava un rischio alto, moderato, ma quindi alto. Sa se per caso Speranza o qualcuno è intervenuto su questo sistema? C'è stato un cambiamento, un aggiornamento? Ma io per prima ho chiesto anche la possibilità di verificare in corso d'opera la bontà di questi criteri, questi indicatori individuati. Alcuni anch'io li ho evidenziati come critici. Per esempio, noi stiamo facendo un monitoraggio molto attento nelle varie RSA, che sono luoghi critici, e andando lì a lavorare facendo tamponi a tappeto è chiaro che abbiamo un aumento delle positività in questi luoghi chiusi, e quindi tutto deve essere un po' considerato mettendo in fila tanti indicatori. Anche in questo ultimo periodo si discute ancora di tamponi e noi abbiamo come Liguria un aumento dei positivi, ma facendo i tamponi e soprattutto facendoli in modo mirato, cioè capace di intercettare laddove ci sono dei rischi, è chiaro che vi è un aumento dei casi positivi. Io lo leggo in modo ovviamente di capacità e di efficienza del sistema, non in modo negativo. Senta, c'è un'altra questione invece che incrocia la Liguria in questi giorni, ed è la questione della app, la famosa app Immuni per il tracciamento dei contatti tramite il meccanismo Bluetooth dei telefonini. La regione è tra le regioni, tra le tre regioni, se ho capito bene, scelte per fare una prima prova, un primo test di questa app. Ora, a parte il fatto che non è stato spiegato, non si capisce benissimo cosa ci sia da provare in una regione piuttosto che in tutta Italia, ma lei però intanto le chiedo cosa vi hanno chiesto di provare, che tipo di test vi hanno chiesto di fare, in particolare qualcosa che non si possa fare invece su base nazionale? Ma guardi, è stato un po' surreale la riunione l'altra sera con tutti i presidenti di regione e il governo, perché non è praticamente pronto nulla per quanto riguarda la possibilità di attivare, almeno nelle regioni sperimentali, questa app a partire dal 2 giugno, come ha detto il ministro Pisano. Anche perché da quello che ci hanno spiegato in quel contesto, quindi prima non ne sapevamo nulla, devono essere coinvolti i medici di medicina generale, i nostri uffici di igiene, che devono andare a sommare l'attività che stanno facendo adesso per le rilevazioni settimanali, i famosi report del Ministero della Salute, con l'inserimento dei dati riferiti all'app Immuni. In più diventa protagonista e centrale la figura del medico di medicina generale, che ad oggi non è ancora stato minimamente coinvolto perché mancano delle linee guida. Cioè i medici di base dovrebbero compiere delle operazioni aggiuntive determinate proprio dall'app, cioè tutti i dati Ma che gli arrivano dovrebbero... Perché da quel che ho letto e che abbiamo capito e che i funzionari del Ministero della Salute ci hanno spiegato è che la persona che riceve un alert deve contattare il suo medico di medicina generale. E questo presuppone un coinvolgimento, ovviamente, percorsi, protocolli, insomma, per chi è addentro al mondo della sanità sa che queste cose non si improvvisano dal lunedì al martedì della settimana dopo. Ma lei infatti ha detto che non ci sta a fare da apripista, no? Che non vuole essere la prima regione a provare. Adesso io non voglio ovviamente... sovrapporre due piani, quello politico e quello tecnico, soprattutto quando si parla di questa emergenza di salute. Però non vorrei che con questi proclami, che inizia la sperimentazione e inizia quando lo decide il governo il 2 di giugno, come è stato detto, e poi sembra che magari è colpa della regione che non riesce a attivare il progetto di sperimentazione. Quindi è meglio essere chiari fin da subito, non dire sì se poi si sa già che per quel 2-3 giugno nulla è stato predisposto. Quindi è meglio essere chiari anche con i cittadini. Ma lei, per quello che ha capito oggi di questa app, lei personalmente la scaricherebbe? La scaricherà? Ma guardi, io ho letto con attenzione la relazione del Copasir. E devo dire che, insomma, i quesiti da un organismo riconosciuto parlamentare, un punto di riferimento per la sicurezza nazionale, i quesiti posti come cittadina per me sono rilevanti e quindi prima di scaricare questa app ci penserei due volte. Ci penserà quindi due volte. Se non cambierà l'app e rimarrà questa, lei potrebbe anche non farlo, non scaricarla. Io attendo che i quesiti sollevati dal Copasir siano risolti. Non c'è stato un no definitivo, ma una serie di criticità che a mio parere, visto l'autorevolezza di chi li ha sollevati in modo... tra l'altro bipartisan, perché è un documento votato all'unanimità, penso che il governo se ne debba fare caso. Però se non cambiasse niente, così com'è, lei non la scaricherebbe? No. Va bene. Va bene, ci sono delle obiezioni naturalmente, quindi c'è un lavoro che è stato annunciato, vedremo. Vedremo. Le cose devono essere quello fatte quello che sappiamo è che siamo sicuramente molto in ritardo, perché doveva partire, poi è stata presentata, adesso parliamo di fare delle modifiche, insomma, il rischio è che arrivi quando poi, dico non servirà più, ma insomma speriamo che non serva, intanto, nel senso che non ci sia un... Lo dice a un soggetto, cioè la regione, che non ha nessuna competenza in merito e che sta aspettando. No, ma infatti era una considerazione, come dire, una amara considerazione che faccio e che si inserisce nel contesto di tutto quello che manca ancora, come i test sierologici che dovevano partire da 4 maggio, ma stanno partendo adesso un po' a fatica. Staremo a vedere. Io la ringrazio, il vicepresidente della Liguria, Sonia Viale, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a voi per l'ascolto. E va bene, e va bene, e va bene. Allora, adesso invece ci occupiamo di un'altra vicenda. Tutto è iniziato dall'esibizione delle frecce tricolori, vista le celebrazioni del 2 giugno. L'altro giorno sono passate sopra Milano, sopra Torino. La sindaca Appendino ha sollevato una questione perché ha detto: guardate che c'era troppa gente tutta attaccata, tutta appiccicata per strada, c'è un rischio assembramento. Gente in piazza per assistere allo spettacolo. È accaduto anche a Perugia, stessa cosa. Oggi le frecce tricolori sono a Napoli alle 15.30, vedremo che cosa accadrà. Noi siamo andati a cercare di capire invece cosa è accaduto, come è andata ieri a Perugia. La pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare ha lasciato anche su Perugia la sua scia tricolore, una scia che poi è continuata nelle polemiche per gli assembramenti documentati da foto e video lungo Corso Vannucci, il popolare salotto del capoluogo umbro, inondati di commenti i profili social del sindaco perugino Andrea Romizzi, che si difende spiegando che tutte le forze di polizia hanno disposto un servizio d'ordine imponente. Quando sono uscito io non c'era neanche una particolare... affollamento, poi effettivamente mano a mano sono arrivate diverse persone. Un orgoglio vero nostro italiano, ma certamente un grande elemento di attrazione. Sappiamo tutti che dove vanno le frecce tricolori, proprio per quanto vengono amate e ammirate inevitabilmente poi si radunano tante persone. C'è poi chi spiega con telefonini alla mano che gli scatti che ritraggono l'assembramento non sono altro che il frutto dello schiacciamento della prospettiva. Almeno quelle vicino a me erano tutte a debita distanza e avevano tutte le mascherine. Sta di fatto che Perugia in meno di una settimana fa parlare di sé per le violazioni al distanziamento sociale dopo le immagini della movida e delle risse tra giovani nello scorso weekend. Voglia di ripartire sì, ma con le dovute attenzioni e senza eccessi. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Ecco, senza eccessi. Ognuno poi deciderà qual è il suo punto di ricaduta, no? Su cosa, come dire, investire anche il proprio rischio personale, se per che tipo di attività. Avrei preferito magari che si rischiasse qualcosa per riaprire le scuole piuttosto che per andare a assistere alle frecce tricolore, ma insomma, ripeto, ognuno ha le sue sensibilità. Adesso invece teniamo il punto, l'impegno di raccontare storie incoraggianti senza dimenticare gli aspetti critici, no? Come abbiamo appena fatto, ma insomma storie come per esempio questa che riguarda la cura del Covid, un'ipotesi che circola da qualche settimana ma che adesso trova una conferma: i danni non solo polmonari di questa malattia dovuta dal coronavirus, legati anche al sistema cardiocircolatorio e al cuore, che possono essere prevenuti con l'uso dell'eparina. Tutto inizia al Giovanni XXIII di Bergamo, dalle autopsie condotte dal professor Gianatti, quando il Ministero della Salute, per evitare il rischio di contagio, sconsigliava di fare autopsie, e di lì poi parte una scoperta che adesso è prossima a una pubblicazione scientifica. Professor Gianatti, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Lei è direttore di anatomia patologica a medicina laboratorio all'ospedale Giovanni XXIII, dicevamo. Che cosa ha scoperto, cosa ha capito in quelle fasi iniziali, da quelle analisi iniziali, che poi ha portato alla, diciamo, a quello che tra poco dovrebbe diventare anche una pubblicazione, cioè già pronta ma aspetta di essere pubblicata, giusto? Sull'Lancet. Sì, senz'altro. È stato oggetto di una intensa revisione da parte degli editori, anche certo, per, diciamo, la pesantezza dei dati, anche per il livello della rivista, per cui siamo adesso in trepidante attesa, ma pensiamo che nel mese di giugno vedrà le stampe il dato. Noi abbiamo di fatto raccolto e abbiamo messo a disposizione rapidamente le prime osservazioni che abbiamo fatto sui riscontri diagnostici eseguiti al Papa Giovanni, e cioè che in molti casi la causa di morte, o comunque gran parte della clinica di questi pazienti, era collegata a fenomeni tromboembolici, cioè a occlusioni di vasi, sia arteriosi che venosi, del circolo essenzialmente polmonare, ma in realtà ne abbiamo trovati disseminati in vari organi. Questo dato, che non è propriamente così innovativo in questo tipo di malattie virali, che può scatenare questa situazione, però è la prima volta che veniva dimostrato su un numero importante di casi nel corso di questa nuova malattia, che ricordiamoci è nata quest'anno. Voi avete trattato quante, cioè avete analizzato quanti corpi di persone decedute? Dunque, il lavoro che lei citava su Lancet si riferisce a 38 casi che abbiamo gestito unitamente agli amici del Sacco. Del Sacco di Milano, certo, giusto ricordarlo. Sacco di Milano, comunque, e in totale sono 38 casi che vengono pubblicati. Noi però in realtà siamo andati avanti e attualmente abbiamo un'esperienza di circa un centinaio di casi. Ecco, le conclusioni, diciamo, le sue conclusioni, che sono state dal punto di vista clinico, che diciamo che la conseguenza del Covid non era solo sui polmoni ma era sul sistema cardiovascolare, come ha descritto lei, ha implicato che si cambiasse anche la strategia di cura e si è iniziato ad utilizzare che cosa, professore? Allora, premetto che ovviamente io sono un morfologo descrittivo, quindi l'aspetto terapeutico a me viene meno, però nel colloquio con i nostri colleghi clinici si è evidenziato ovviamente che l'azione dell'attivazione dei fattori della coagulazione, che sono la causa di questi trombi, andava in qualche modo bloccata, e quindi utilizzando dei farmaci molto noti, anticoagulanti come l'eparina a basso peso molecolare, si è iniziato a trattare in ambito clinico in questo modo la malattia. Ecco, voglio premettere che questa malattia di fatto al momento non ha ancora una terapia ben precisa, e anche qui nella nostra esperienza al Papa Giovanni nel corso dei mesi ci sono stati degli adattamenti alle varie situazioni cliniche che hanno portato all'introduzione di nuove modalità di cure, ad esempio l'idrossiclorochina, che è uno dei capisaldi di questo trattamento, almeno in Italia, non più tardi di ieri, è stata in parte smentita da delle pubblicazioni, quindi è tutto molto in divenire. Di certo l'azione sui fattori della coagulazione può migliorare i quadri clinici, ecco, di questi pazienti. Ovviamente tutto è a prova di smentita, compreso anche il vostro studio naturalmente, però sì, dal colloquio che lei ha avuto, insomma, immagino colloqui frequenti, giornalieri, sono 2 mesi che andiamo avanti, adesso la situazione è molto cambiata, anzi le voglio chiedere anche fare una domanda anche in prospettiva, però dai colloqui con gli amici, i colleghi clinici che stanno utilizzando, che hanno utilizzato l'eparina, effettivamente dal momento in cui si è iniziato a utilizzarla in maniera mirata, ci sono stati dei cambiamenti, ci sono stati dei risultati positivi? Questo, anche se lei non è una specialista, ce lo può dire? Sì, beh, sicuramente, perché poi diciamo che dal punto di vista clinico questi aspetti tromboembolici possono essere visualizzati anche ad esempio con metodiche radiologiche, quindi in realtà ci siamo trovati un incontro insieme con i nostri dati autoptici e quelli clinici. L'ipotesi dell'attivazione tromboembolica era già nell'aria, quindi noi non abbiamo fatto altro che far partire tutto il meccanismo e l'applicazione in maniera più convinta della terapia. Questa, unitamente anche all'introduzione degli steroidi, ha portato sicuramente a un miglioramento. Ripeto, sarà poi solamente lo studio con trial controllati, con revisioni di tutto quanto stiamo producendo nel mondo, che si riuscirà realmente a dare delle indicazioni più precise. C'è un ascoltatore che fa una domanda, io la faccio, però non le chiedo una risposta perché lei non è appunto si occupa di autopsie, quindi come ha detto si occupa della morfologia umana e non della cura. C'è questo signore che dice: sono un medico ospedaliero, ma mi dite quale anziano non ha in terapia l'anticoagulante da anni? Cioè a dire, se gli anziani i più gravi colpiti, cioè quelli più colpiti in modo grave dalla patologia del coronavirus, prendono già l'anticoagulante, com'è che questo non li ha tutelati? Beh, ovviamente questa è una classica domanda a cui si può rispondere solamente dopo aver raccolto dei dati. Cioè, è vero che la malattia ha colpito prevalentemente anziani, l'età media anche da noi abbiamo superiore ai 60 anni, però bisogna capire poi. È vero che la terapia anticoagulante è diffusa, ma i nostri pazienti quanti erano in terapia anticoagulante? Quindi questo è un aspetto che attualmente non può avere ancora una risposta. Capito, assolutamente. No. Senta, le voglio chiedere un'ultima cosa, come le ho anticipato prima di salutarci. Nel tempo, insomma, l'andamento dell'epidemia è molto cambiato, è migliorato, la curva è scesa, ci sono meno ricoveri, meno vittime. A cosa sta assistendo in queste settimane? Le voglio chiedere. Il virus qualcuno dice si è indebolito, è in grado di fare meno danni sulle persone, o è tutto per esempio merito del controllo, del lockdown e quindi dei minori contagi? Lei a che tipo di situazione sta assistendo in questi giorni? Allora, il dato di fatto è che sicuramente a Bergamo si assiste a una riduzione sia degli accessi in pronto soccorso, sia soprattutto di situazioni cliniche gravi rispetto ovviamente al periodo acuto. Sono in corso le dimissioni. Abbiamo purtroppo una serie di pazienti che sono ancora ricoverati in terapia intensiva sotto regime rianimatorio, che purtroppo potrebbero non avere una grossa evoluzione, però sicuramente diciamo la fase acuta dell'epidemia si è ridotta. La spiegazione ovviamente è soprattutto in mano ai virologi, per cui è molto probabile che il discorso del lockdown abbia determinato un'alterazione del percorso naturale di queste ondate epidemiche, che comunque dopo l'esplosione è una fase di plateau e poi vanno a diluirsi. Il fatto che il virus abbia cambiato faccia oggetto di studio, nel senso, certo, che stiamo eseguendo ancora proprio degli studi molecolari per vedere se le mutazioni a cui va incontro sono anche correlabili a una riduzione dell'infettività, però anche qui siamo veramente a un livello molto preliminare. Grazie professor Gianatti del Giovanni XXIII, in attesa della pubblicazione sul Lancet di questo importante risultato raggiunto tra i primi nel mondo, i medici italiani, su questa questione dei danni cardiovascolari del coronavirus. 13:34, piccolo break, torniamo tra un... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. È in corso proprio in questi minuti la presentazione del piano di rilancio europeo da parte della Commissione europea. Tra poco le parole della presidente Ursula von der Leyen e noi ve le racconteremo in diretta. Adesso però è il momento del punto, il vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Il Premier oggi ci avvisa che il governo ha in mente di realizzare le riforme che il Paese non ha saputo fare negli ultimi 20 anni. Il fisco, la semplificazione della burocrazia, l'investimento nella digitalizzazione, nell'economia sostenibile, nell'innovazione dell'offerta formativa. Ce n'è bisogno del resto in un'Italia con una pressione fiscale vicina al 50% per gli onesti, che pagano anche per la miriade di evasori. In un paese dove per realizzare un'opera servono 8 anni solo per arrivare a presentare il progetto, dove la banda larga non c'è in almeno 2000 comuni, dove i laureati sono la metà della media europea e comunque in materie che il lavoro non lo danno. Riforme giuste, inevitabili, ma anche effetto annuncio, arma di distrazione di massa, si direbbe, magari per dire a Bruxelles, nel giorno della discussione del Recovery Fund, che l'Italia è un paese con una visione e non quel bazar della politica che le risse tra presunti alleati stanno mostrando ora dopo ora. Ma effetti annuncio anche paradossali. Per Conte, ad esempio, è decisivo scommettere su Industria 4.0 e lo dice con enfasi. Ma allora viene da domandarsi perché il governo ha tolto i fondi proprio al piano di Industria 4.0. E va bene, dunque, come avete sentito, Conte annuncia di voler far trovare l'Italia pronta al momento in cui arriveranno gli aiuti europei. È arrivato il momento anche però di svelare quali saranno, come saranno questi aiuti europei. Non parliamo del MES, che è un'altra questione, si è risolta, adesso ogni paese potrà farne domanda. Non parliamo dei fondi per la disoccupazione, neanche dei finanziamenti della BEI. Parliamo del famoso piano di rilancio, Recovery Fund, così definito in lingua inglese, che era partito da 1.000 miliardi, poi i paesi frugali chiedevano molto meno. C'è stata la proposta Merkel-Macron qualche giorno fa di 500 miliardi. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno Alessio. Allora, è il momento forse della verità. Cosa sappiamo a questo punto? Quello che possiamo dirvi è che proprio in questi istanti, mentre vi stiamo parlando, si è aperta la sessione al Parlamento Europeo, dove a minuti Ursula von der Leyen presenterà formalmente la proposta. Ormai di questa proposta però sappiamo le linee più importanti, le linee essenziali, ed è importante anche raccontarle, perché parliamo di un pacchetto per la ripresa, un recovery fund da 750 miliardi, quindi a metà strada tra i 500 di Francia e Germania e i 1.000 di cui accennavi tu. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti, così l'ha definito il commissario degli affari economici Gentiloni qualche minuto fa. E da quanto si è qui trapelato, allora, 2/3 di questa somma, quindi 500 miliardi, sarà distribuito sotto forma di sovvenzioni, quindi non rimborsabili, aiuti veri e propri. Parliamo proprio della cifra, tra l'altro, proposta da Francia e Germania, mentre gli altri 250 miliardi sarebbero prestiti, come invece preferivano i famosi 4 paesi, Austria, Olanda, Danimarca e Svezia. È molto importante però il capitolo Italia, Alessio, perché il nostro paese dovrebbe ricevere la quota in assoluto più alta, oltre 172 miliardi. Di questi sono 30 più della Spagna, tra l'altro. 81 sarebbero aiuti, 91 prestiti. Dobbiamo anche però detrarre i circa 100 miliardi che poi il nostro paese va a versare al bilancio europeo. Comunque, in ogni caso, siamo ampiamente sopra. Più in generale, la Commissione europea propone anche un bilancio europeo settennale da 1.100 miliardi, oltre ai 750 miliardi di recovery fund. Quindi parliamo di uno sforzo complessivo di budget che arriva quasi a 2.000 miliardi. Questi 750 miliardi di recovery fund saranno ricavati innalzando temporaneamente il tetto delle risorse del bilancio comune europeo al 2% del PIL europeo e andando così sui mercati a finanziarsi. Il debito emesso non lo chiamano Eurobond, ma di fatto è un embrione di Eurobond. Ecco, spieghiamo gigante. Sergio, questo, dedichiamo un minuto proprio a questo, perché siccome abbiamo già avuto modo di dire nulla si crea né si distrugge, tantomeno il denaro, questi soldi, che sono tanti, da dove arrivano? Cioè, qual è il meccanismo? Come dicevi giustamente tu, non si chiamano Eurobond, però di fatto ci saranno delle emissioni basate sul bilancio europeo? Esatto, perché innalzando, diciamo, come abbiamo detto, innalzando il tetto delle risorse proprie, il bilancio, al 2% del PIL, quindi aggiungendo al quello che è già il bilancio settennale europeo, che sono circa 1.100 miliardi, questi altri 750, la Commissione può andare sui mercati con questa garanzia che gli danno gli Stati a emettere bond, quindi a emettere debito. Sono nei fatti Eurobond, non li chiameranno mai così perché è un passo gigantesco a livello di politica fiscale europea mai visto prima. Su questo bisogna dare atto a Bruxelles, tra l'altro proprio 10 secondi fa ha iniziato anche a parlare Ursula von der Leyen. Bisogna dare atto a Bruxelles. Possiamo provare a sentire un attimo, sentiamo se è in presa diretta. della distruzione. No, abbiamo l'audio tradotto sui canali internazionali, naturalmente Sky, quindi niente. Sergio, prego, prego, così poi concludiamo. Quindi dicevamo, la Commissione usa di fatto queste garanzie, questo innalzamento del tetto di risorse proprie per andare a finanziarsi. Tra l'altro, il rimborso di questo, i rimborsi, la Commissione poi pagherà tra il 2028 e il 2058. Altre novità importanti, la Commissione propone sì. di includere nuove risorse con tasse sulle emissioni, tasse sulle grandi multinazionali, tasse sulla plastica e anche la web tax. E queste sarebbero risorse a quel punto proprie, perché anche, e questo è un altro passo importante, perché di fatto il bilancio europeo ha poche risorse proprie, sono di fatto gli stati che vanno un po' come si fa col figlio e gli si dà la paghetta in modo che poi si gestisca solo. No, la Commissione propone anche questo passo in più di maturazione ulteriore. Importante anche una cosa, però non dimentichiamo che questa è una proposta, Alessio. Certo, essere discussa e negoziata tra meno di un mese dai leader europei. E lì saranno guai, perché non è legge, esatto. No. Non è legge. Sappiamo che i paesi che sono contrari faranno valere le loro posizioni, quindi insomma, è possibile che sicuramente ci sarà un braccio di ferro, possibile che alcune di queste cose cambino, no, le punti di ricaduta. Questo è probabile, è possibile, no Sergio? Saranno, si dice, saranno negoziati duri, ovviamente c'è anche molta pretattica, perché è una proposta che, come vediamo, va un po' ad accontentare tutti, perché va a accontentare l'asse franco-tedesco, ma va anche a accontentare con i prestiti. Ed è anche moderatamente ambiziosa come cifre, 750 miliardi non sono. Quindi tu dici anche questa, come dire, generosità potrebbe essere la premessa poi per una trattativa dove si andrà inevitabilmente anche un pochino al ribasso sulla cifra, perché lo chiederanno sicuramente gli stati che sono contrari a questo punto, ma è inutile fare previsioni per il futuro. Sergio Nava, intanto grazie per essere stato con noi, grazie. Ci fermiamo, piccola informazione sul traffico e poi torniamo con Crivelli, Effetto Mondo.